Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi è partito il secondo nucleo della task force dei medici e domani arriveranno a Roma il primo nucleo della task force degli infermieri. Sono partiti 76 dottori per rinforzare la parte sanitaria delle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Marche e Valle d'Aosta. Mi ha dato notizia, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, oggi di questa task force, cioè di questo gruppo di medici e di infermieri, di medici e di infermieri che hanno risposto all'appello, al bando della Protezione Civile, quindi con grandissima generosità, oltre che con grande competenza e professionalità, a sprezzo del pericolo, è il caso di dire, visto che in Italia sono già circa una settantina i medici e ci sono anche tanti infermieri che sono morti e tanti che si sono ammalati. Proprio qui a Effetto Notte ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, sia dei medici quando è stato lanciato questo bando, sia degli infermieri con la presidente della Federazione delle Professioni Infermieristiche, che diceva insomma che naturalmente c'è tanta generosità, tanta voglia di esserci in questo momento in cui bisogna combattere in prima linea. Sperava però e auspicava, questo è l'auspicio di tutti immagino, che poi una volta passata questo tsunami venga riconosciuto insomma il lavoro così prezioso da ogni punto di vista, anche oltre che dei medici naturalmente, degli infermieri, che pensate, da 500 che ne cercava il bando hanno risposto in 8000, e questi appunto sono i primi gruppi che sono arrivati per rinforzare da varie regioni d'Italia quelle più colpite, in particolare la Lombardia e poi l'Emilia Romagna eccetera. Comunque parleremo di, ovviamente, sempre di pandemia di coronavirus. Per quanto riguarda l'Italia, però, anche con due notizie importanti. Una che viene dal Policlinico San Matteo di Pavia, dove si sta sperimentando una terapia che è stata già utilizzata in Cina, cioè la plasmaterapia, la possibilità di curare, sempre sperimentale naturalmente, di curare i malati con il sangue delle persone che sono guarite, che quindi si ritiene che siano immunizzate. E poi, a proposito di vaccino, che è quello che aspettiamo tutti in tutto il mondo, c'è il professor Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, che si è detto piuttosto ottimista sui tempi. Poi lo sentiremo. Ci occuperemo anche di questa polemica tra Stato e Regioni sul fatto che forse certe competenze, soprattutto quella della sanità, secondo per esempio Boccia, il ministro degli affari regionali, debba ritornare, secondo il PD e il Movimento 5 Stelle, allo Stato, e invece dall'altra parte i presidenti di Regioni, in particolare della Lombardia, della Lega, che sono contrari, che comunque dicono che in Lombardia sono arrivate finora soltanto le briciole. Insomma, tante cose come sempre da raccontarvi, quindi mettetevi comodi e comode ovunque siate, in casa naturalmente, e poi per chi ha turni particolari naturalmente dal lavoro. 349-238-6666, ve lo ricordo, è sempre il numero per i vostri sms o messaggi WhatsApp, ripeto 349-238-6666, se no c'è sempre comodamente, che ve lo dico a fare, la pagina Facebook di Effetto Notte. Allora, prima di approfondire i vari temi con gli ospiti, sintesi come sempre della giornata. La pandemia di coronavirus, metà della popolazione mondiale sottoposta a misure di isolamento a causa del virus, 1 milione i contagiati, 50.000 morti nel mondo. L'epidemia di Covid-19 in Italia, i casi positivi sono arrivati alla cifra di 115.242, mentre sono 13.915 i morti, guariti 18.278, 1.431 più di ieri. Buoni dati sulla Lombardia, cominciamo a uscire dalla più grave emergenza, ha detto il vicepresidente della regione Fabrizio Sala. Le misure economiche, vertice di maggioranza per definire gli aiuti a famiglie e imprese, allo studio il rimborso delle rette di asili nido e materna. Le possibili terapie, al San Matteo di Pavia si sperimenta la plasmaterapia, sentiremo il direttore del reparto di immunoematologia, e sui tempi per il vaccino il presidente del Mario Negri si dice ottimista, sarà ospite qui a Effetto Notte. Scuola per la maturità, solo un colloquio orale se non si torna in aula entro il 18 maggio, domani la decisione del governo. Clima: in Europa è stato l'inverno più caldo di sempre, Russia e Scandinavia i paesi con le anomalie maggiori. I nostri antenati, il più diretto antenato degli esseri umani, è vissuto 2 milioni di anni fa. Partiamo Partiamo quindi dalla pandemia di Covid-19, quindi dal virus nel mondo. A causa del coronavirus la metà della popolazione mondiale è sottoposta a misure di isolamento. Questo è quanto emerge dal conteggio dell'agenzia France Press. 1 milione i contagiati, 50.000 i morti nel mondo. In Italia sono complessivamente 83.049 i malati di coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 2.477. Il numero complessivo dei contagiati, quindi comprese vittime e guariti, è di 115.242. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile, quindi sentiamolo dalla viva voce del commissario, del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Il totale delle persone attualmente positive è di 83.049, con un incremento di 2.477 pazienti rispetto a ieri. La maggior parte, il 61%, del totale sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Questo numero è cresciuto anche percentualmente, quindi si riducono il numero degli ospedalizzati. Il numero dei deceduti ancora oggi registrato è di 760 nuovi deceduti. Il totale dei guariti è complessivamente di 18.278. Rispetto a ieri le persone guarite sono 1.431 in più. E sentiamo quali sono i dati in specifico della regione più colpita, cioè la Lombardia. Continua a rallentare il contagio in Lombardia, scende il numero dei ricoveri, oggi 165 in meno di ieri, e sono in calo i positivi in tutte le province maggiormente colpite. Lo ha detto il vicepresidente della Lombardia, Fabrizio Sala. Nei dati di oggi troviamo in effetti una conferma del trend che va valutato, come abbiamo sempre detto, nell'arco di 4-5 giorni. Allora, avevamo detto che il tasso del contagio, cioè la velocità con il quale il contagio si trasmetteva, stava diminuendo, è diminuito. I morti sono stati 367, il totale dei positivi è salito di 1.292 casi. Scontro sulla sanità lombarda con il viceministro dell'interno e leader del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, che critica la gestione dell'emergenza da parte della regione, che fatica a dare risposte. Il governatore Fontana sostiene che da Roma sono arrivate solo briciole e che se non ci si fosse dati da fare autonomamente si sarebbero chiusi gli ospedali in 2 giorni. E intanto arriva dall'ospedale Sacco di Milano il primo ritratto in bianco e nero del virus SARS-CoV-2 isolato in Lombardia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi parleremo, vi dicevo, a proposito del botte e risposta tra il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e il ministro degli affari regionali Boccia, anche della polemica che c'è stata poi sul centralismo dello Stato, sul fatto di riportare certe competenze, in primis la sanità, dalle regioni allo Stato. Ne parleremo dopo. Intanto è stato avviato lo screening con il test sierologico per la ricerca del coronavirus in tutte le 700 case di riposo del Piemonte, fra dipendenti e ospiti. I test, spiega l'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi, offrono un primo screening rapido dell'infezione. Una simile indagine è già partita in Veneto, in Emilia-Romagna e in altre regioni. Servono linee guida chiare per i test sierologici, ha detto il ministro Boccia per gli affari regionali. A proposito delle terapie sperimentali, al San Matteo di Pavia si sperimenta la plasmaterapia e sarà ospite, dovremo raggiungerlo almeno, il direttore della immunoematologia e medicina trasfusionale del San Matteo di Pavia, qui a Effetto Notte. E sui tempi per il vaccino si è detto piuttosto ottimista il presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Silvio Grattini, a sua volta ospite qui a Effetto Notte. Dicevo all'inizio che la metà della popolazione mondiale è sottoposta a misure di isolamento. Anche in Europa la situazione è più grave. È una conta delle vittime sempre a rialzo, quella che registra la Spagna sul fronte coronavirus. I decessi in un solo giorno hanno sfiorato i 1.000, segnando 950, un numero che ha portato il totale delle vittime sopra le 10.000. I contagi crescono al ritmo di oltre 8.000 al giorno. Il focolaio non ha toccato il picco, ora è concentrato negli ospedali e nelle unità intensive, ha spiegato Fernando Simon, a capo del coordinamento delle emergenze sanitarie. La Francia ha notificato alla Commissione europea la decisione di ristabilire controlli temporanei alle proprie frontiere fino al 30 ottobre a causa del coronavirus. virus e per ragioni di ordine pubblico. Nuovo record giornaliero di vittime in Gran Bretagna, ben 569 che portano il totale a quasi 3.000. Oltre Manica i contagiati sono più di 30.000, mentre il premier Johnson prosegue il suo isolamento. I sintomi da Covid-19 non sono ancora spariti. Il suo governo intanto è nella bufera, dopo che anche la stampa più vicina li rimprovera lo scarso numero di test condotti per identificare i positivi. In Germania un'inchiesta giornalistica sostiene che i numeri di medici e infermieri contagiati da coronavirus sia superiore ai 2.300 ufficialmente recensiti dal Robert Koch Institute e che la situazione stia peggiorando anche per la mancanza di materiale protettivo. Dalla Russia infine l'annuncio a sorpresa del presidente Putin. La sospensione delle attività non essenziali andrà avanti fino a fine mese, ma lo stipendio sarà garantito comunque. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di Europa, ci collegheremo poi con la Spagna, che sapete ha una situazione a sua volta pesantissima. Secondo l'OCSE, la Germania però è la meglio attrezzata in Europa contro il coronavirus. Italia, Spagna, Francia e Regno Unito invece impreparati. È solo la Germania, tra i principali paesi europei, ad avere un sistema sanitario sufficientemente attrezzato per rispondere in modo adeguato alla pandemia di Covid-19. Ad affermarlo l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che ha twittato un'infografica in cui vengono messe a confronto da una parte appunto la Germania e dall'altra Francia, Italia, Spagna e Gran Bretagna. Il confronto si basa sui dati relativi al numero di posti letto e al personale sanitario aggiornati al 2019. La Germania in questo momento ha un numero di morti inferiore agli altri paesi europei anche perché ha una spesa pro capite per la sanità più elevata, dispone di più personale sanitario ed ha un numero di posti in ospedale tra i più elevati dei paesi OCSE. Per quanto riguarda l'Italia, l'infografica segnala che il numero dei medici in rapporto alla popolazione è più alto della media OCSE, ma uno su sei ha più di 65 anni. Quanto poi al numero di posti letto è inferiore alla media. L'Italia inoltre è seconda in Europa per speranza di vita, ma ci sono forti diseguaglianze tra le diverse regioni e i diversi status socio-economici. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prosegue intanto la partita europea del Presidente del Consiglio Conte, che vorrebbe maggior coraggio nell'aiuto dei paesi in difficoltà. Per fronteggiare l'emergenza coronavirus, le istituzioni europee e i Paesi membri finora hanno mobilitato 2.770 miliardi di euro. È la più ampia risposta finanziaria ad una crisi europea mai data nella storia, sottolinea Ursula von der Leyen. Il piano Marshall, invocato da molti, dovrebbe essere il bilancio europeo, aggiunge la Presidente della Commissione, presentando il fondo europeo da 100 miliardi, lanciato da Bruxelles per finanziare la cassa integrazione nei paesi più colpiti dal coronavirus. Il piano è la prima risposta comune dell'Europa alla crisi, sottolinea il commissario agli affari economici Gentiloni. Fra i partner europei intanto prosegue il confronto sul MES e sui corona bond, che sarebbero una risposta efficace, ribadisce il premier italiano Conte, secondo il quale è anche necessario un progetto più ampio, una politica fiscale in grado di rafforzare tutti gli stati europei. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto dovrebbe essere riunita la maggioranza per discutere di come aiutare famiglie e imprese. Un vertice di maggioranza per mettere a punto le nuove misure economiche da varare nel decreto aprile. Al centro il provvedimento sulla liquidità delle imprese che il premier Giuseppe Conte spera di portare in Consiglio dei Ministri già da domani per vararlo prima di Pasqua, soprattutto dopo l'appello di Confindustria. Si parla di un accesso più agevole dei finanziamenti delle banche con la garanzia dello Stato per liberare 500 miliardi di euro nell'economia reale. Ma poi ci sono scuole e famiglie. Si pensa a rimborsi sia chi gestisce asili nido e scuole materne, sia pubbliche che private, e restituzione delle rette già versate dalle famiglie nel periodo di sospensione del servizio scolastico per la fascia da 0 a 6 anni. Da parte di Italia Viva, la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova propone che chi prende il reddito di cittadinanza o il sussidio di disoccupazione possa aiutare nella raccolta dei campi. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ieri parlavamo del blocco del tilt del sito dell'INPS, oggi per fortuna ha funzionato senza blackout e hackeraggi. Sono quasi 2 milioni le domande arrivate per le misure del decreto Cura Italia sull'emergenza Covid-19, 1 milione e 600 mila le richieste di indennità di 600 euro dai lavoratori autonomi, mentre per la cassa integrazione ordinaria sono arrivate 86 mila domande, 14 mila le richieste del bonus babysitter, e il garante per la privacy intanto ha avviato un'istruttoria sulla violazione dei dati personali legata alla falla che si è aperta ieri nel sito dell'INPS. I mercati, borse europee positive oggi sulla scia di Wall Street con Donald Trump che accelera la corsa del petrolio parlando di un taglio della produzione. Mi aspetto e spero in un taglio di circa 10-15 milioni di barili di petrolio. Lo ha scritto nel pomeriggio Donald Trump in un tweet in cui ha dichiarato di aver parlato con il principe saudita Mohammed bin Salman, il quale, riferisce sempre Trump, ha parlato a sua volta con il presidente russo Vladimir Putin. Un tweet di cui le borse hanno beneficiato, sul finale quelle europee che hanno chiuso positive, con Milano più 1,75% maglia rosa. Il WTI, consegna maggio, era arrivato a salire del 30% dopo l'annuncio del presidente americano, che però poco dopo è stato smentito dal Cremlino. L'agenzia di Stato russa ha infatti negato che Vladimir Putin abbia parlato con il principe saudita Mohammed bin Salman, con Riyadh che ha chiesto una riunione d'emergenza tra l'OPEC e i paesi non OPEC. Il tema di un eventuale accordo tra Russia e Arabia Saudita ha in ogni caso fatto dimenticare agli investitori il balzo negli Stati Uniti delle richieste iniziali alla disoccupazione, che aveva fatto sbandare sia Wall Street sia gli indici europei. Anche Dow Jones e Nasdaq, dopo un'apertura al ribasso, proseguono in territorio positivo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dovrebbe essere introdotta nel decreto Cura Italia una norma per difendere medici e infermieri in prima linea per combattere il coronavirus dal rischio di possibili cause. A quanto si apprende da fonti di maggioranza, il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha proposto di intervenire sul tema della responsabilità dei medici, starebbe spingendo per introdurre la norma subito come emendamento al decreto Cura Italia in Senato. Sul tema ci sono proposte bipartisan dei gruppi parlamentari, si starebbe lavorando in queste ore per fare una sintesi. Intanto l'Alto Adige introduce l'obbligo di coprire naso e bocca in caso di incontri al di fuori dell'ambiente familiare, soprattutto nei negozi. Lo prevede l'ordinanza del governatore con Pasquier, che firmerà nelle prossime ore, che recepisce tra l'altro l'ultimo decreto nazionale. E pensate che c'è già il primo film sul coronavirus ambientato in un ascensore realizzato in Canada da Mustafa Keshvari, si intitola Corona, che cosa succede in un ascensore rimasto fermo quando nasce il sospetto che una delle sette persone intrappolate, una ragazza cinese, potrebbe avere il coronavirus. È la base di questa trama, di questo film di Corona, primo film già pronto che ha inserito nella trama il Covid-19, a girare questo instant thriller psicologico da 63 minuti ambientato nella fase iniziale dell'epidemia è stato appunto Mostafa Keshvari, regista iraniano che ha studiato cinema e lavora in Canada a Vancouver, e dice anche con questo film Corona affronta il tema del pregiudizio. E poi una notizia per portarci un po' fuori da questa totalità che ci impone il coronavirus: è vissuto 2 milioni di anni fa ed è quindi 200.000 anni più antico del previsto il più diretto antenato degli esseri umani, l'Homo erectus. Lo indicano i frammenti del cranio di un piccolo di 3 anni vissuto in quell'epoca, trovati in Sudafrica. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science, si deve alla collaborazione fra l'Università Sudafricana di Johannesburg con il gruppo di Andy Harris e l'Università Australiana di La Trobe. Alla ricerca hanno partecipato anche università italiane di Pisa, di Firenze, e poi il cranio affine Homo erectus diviene così il più antico scoperto in Africa, indebolisce, senza però escluderlo del tutto, l'ipotesi che Homo erectus abbia avuto origine fuori dall'Africa. E infine una notizia che riguarda il clima, anche di questo parleremo nel corso della puntata di Effetto Notte: l'inverno appena trascorso è stato il più caldo di sempre in Europa, con 3,4 gradi in più rispetto alla media del periodo di riferimento, cioè il trentennio 1981-2010, un valore ben superiore anche all'anomalia globale di 0,8 gradi, lo annuncia il Copernicus Climate Change Service. Ne parleremo appunto dopo. Adesso piccola pausa, giusto per aggiornare le pochissime e pochissimi che saranno in giro per questioni di lavoro o esigenze particolari, quindi la viabilità. Poi incominciamo allora ad affrontare i vari temi con gli ospiti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchi di notizie, di aggiornamenti in diretta, della sintesi della giornata che avete appena sentito, per avere un quadro chiaro della giornata che si sta chiudendo, e poi la possibilità di affrontare con gli ospiti alcuni argomenti, sapete, da questo lungo periodo sempre naturalmente legati quasi tutti alla pandemia di coronavirus. Roberta Giordano sempre con voi per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, che sempre per voi giorno e notte potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Un ascoltatore o ascoltatrice dice: ricordate che i sanitari non sono solo medici e infermieri, ad esempio il primo morto piemontese tra i sanitari è stato un tecnico di radiologia. Ma questo certamente, devo dire, un po' per ignoranza, un po' per non stare diciamo a dettagliare proprio caso per caso, si dice insomma il personale sanitario in genere. Quando si dice medici e infermieri, naturalmente non si fa distinzione con un tecnico o una tecnica di radiologia. Dentro di noi, nella nostra testa, nella nostra comunicazione, ci sono dentro tutti quelli che operano negli ospedali, nei pronto soccorso, nelle case di riposo, naturalmente il personale sanitario ovviamente nel suo complesso. Allora, direi di partire innanzitutto da questa polemica che si riaccende sulle competenze Stato-Regioni, no? Con la modifica dell'articolo 5 alcune materie sono andate di competenza alle regioni, come per l'appunto e prima di tutto la sanità. Su questo saluto Alberto Rioli, vice editore del Sole 24 Ore. Caro Alberto. Buonasera a tutti. Si è riaccesa proprio in un momento così emergenziale, di così profonda crisi, no? Questa polemica. C'è stato partito dallo scontro sulla sanità in Lombardia, perché oggi il presidente della regione Attilio Fontana, presidente leghista, ha detto: sì, si fa tanto, per carità, però in Lombardia sono arrivate dal governo, dalla protezione civile, soltanto le briciole. Qui c'è stata invece poi una risposta da parte del ministro per gli affari regionali Boccia, che ha detto: in realtà noi stiamo facendo moltissimo per la Lombardia, dice, se ci fosse dall'alto una grande telecamera si vedrebbero in Italia in giro solo mezzi militari che scaricano materiali che lo Stato acquista in tutto il mondo per le regioni, specie per la Lombardia. Ha spiegato il ministro del PD, dice, faranno quello che sarà possibile, ma per ora, dice di nuovo il Tilio Fontana, il presidente della regione Lombardia, la regione ha fatto molto di più. Sentiamo giusto qualche passaggio in audio, sentiamo prima Fontana. Io, guardi, per carità, credo sicuramente a quello che dice il ministro Boccia, ma devo credere anche ai dati in mio possesso. Probabilmente inizieranno a fare tutto quanto possibile. Per ora noi prendiamo atto, ieri mi sembra che l'assessore Caparini abbia dato anche dei dati della situazione, per ora credo che abbia fatto molto, ma molto di più la regione. E ha risposto anche il sindaco di Milano, Sala, il quale ieri insieme ad altri sindaci lombardi, il sindaco per esempio di Bergamo, Gori, che è la città più colpita, ma anche quella di Brescia, il sindaco di Brescia e altri sindaci lombardi hanno scritto a Fontana, diciamo un po' incalzandolo su alcune richieste, su alcune cose che non sono state prese secondo loro in considerazione fino in fondo. Sentiamo Sala. Va bene tutto, capiamo le difficoltà, però ribadiamo che il personale medico e a questo punto soprattutto chi sta nelle residenze per anziani, e cioè anziani e personale medico, devono essere sottoposti a tampone. E quindi si è riaperta la polemica, dicevo appunto, tra Stato e Regioni su chi deve avere competenza su certe materie così importanti, così delicate come la sanità. È intervenuto il vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando oggi, che ha detto: 20 sistemi diversi creano delle disuguaglianze, creano caos, quindi forse sarebbe il caso di riportare tutto sotto l'ombrello dello Stato. Sentiamo come ha replicato il leader della Lega Salvini. Il vice segretario del Partito Democratico Orlando stamattina in un'intervista dice: la prima riforma che faremo sconfitto il virus qual è? Centralizzare la sanità nelle mani dello Stato. Oibò. Ma io dico, facciamo l'esempio di Regione Lombardia, che è tristemente criticata da qualche politico di sinistra. I numeri dicono che Regione Lombardia ha aperto in queste settimane, grazie ai propri medici, grazie alla propria organizzazione, 1000 letti di terapia intensiva in più, facendo da solo. Anche perché se si dovessero aspettare in tutta Italia le mascherine, i ventilatori, l'ossigeno, i camici, le tute, gli occhiali dal governo centrale, campa cavallo. E poi, Alberto Rioli, è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Conte, che ha ricordato come, ha detto, la Regione Lombardia, come tutte le altre, non è mai stata esautorata dalla possibilità di adottare delle ordinanze proprie. Insomma, diciamo, poi quando tutto questo passerà si capirà che cosa deve cambiare. Secondo te che cosa deve cambiare, se ci sono appunto dei punti deboli che cogli in questo momento in particolare, Alberto? Ma francamente questo mi sembra che i punti deboli siano evidenti, nel senso, rispetto a un evento che è una pandemia, che ha qualcosa di epocale, di biblico e di apocalittico insieme, è chiaro che la risposta non può essere frantumata nelle piccole patrie all'interno dell'Europa, figuriamoci all'interno delle piccole patrie dei piccoli campanili italiani, questo è evidente. Il titolo quinto non è mai funzionato, questo lo sapevamo, c'è la Corte Costituzionale che ha una pipeline piena di ricorsi da parte delle regioni sull'amministrazione del territorio, ma anche su vicende che riguardano altre materie concorrenti e anche altre materie di esclusiva competenza come appunto la sanità. Non può essere la risposta del micro territorio quella giusta rispetto a un fenomeno che riguarda il mondo. È evidente che ci vuole una ridefinizione delle competenze, dei raggi d'azione, dei diversi livelli istituzionali su un tema così delicato. Io credo che sulla sanità avremo molto da dire, perché per troppi anni è stata vissuta come un costo. Sicuramente la sanità costa, ma non è solo un costo e non è solo un taglio lineare magari rispetto alla spesa pubblica, su questo dobbiamo fare molti mea culpa e molti atti di pentimento, e sicuramente ci sono formule virtuose di sussidiarietà, di collaborazione tra pubblico e privato, che devono diventare un modello di riferimento anche per altre regioni che magari non sono particolarmente virtuose, però appunto mi chiedo cosa sarebbe successo se per esempio il virus avesse cominciato ad attecchire da sud e non da nord e avesse magari devastato un paio di regioni che non hanno sicuramente le performance sanitarie a livelli della Lombardia o del Veneto. Sarebbe stata una tragedia, ancor più tragedia di quanto non sia ora, evidentemente. Quindi questo dimostra che l'assetto perlomeno giuridico e di regole, che poi significa anche di disponibilità di mezzi e di rapidità d'azione, che abbiamo messo in campo non è quello ottimale, soprattutto nel primo periodo, quando la polemica tra regioni e Stato centrale era palese e anche tra regioni tra loro. Quindi all'inizio, nella prima settimana di risposta a questo evento di cui non avevamo ancora capito l'effettiva gravità, è stata il caos più assoluto, il tutti contro tutti e il free riding più incredibile. Quindi questa cosa non deve più succedere, evidentemente dovrà diventare motivo di, quando tutto questo sarà finito, di discussione, di razionalizzazione, di miglioramento. Alberto, c'è un ascoltatore, Giacomo, che dice: chi l'ha cambiato l'articolo quinto, lui lo dice in un altro modo, insomma, comunque la sinistra. Sì, beh, assolutamente, fu un grandissimo errore strategico. A fine legislatura fu fatto in grande corsa da un governo Prodi molto preoccupato dalle conseguenze che allora la Lega in grande spolvero aveva dopo le manifestazioni sul della secessione, quello di staccarsi. Secessione, devolution, tutto quello che vogliamo, con i Celti, il Dio poi, tutto il resto. Volle dare delle forme di autonomia, insomma, alle regioni. Certo, travolti da questo impeto hanno tentato di dare una risposta. Fu questa messa a punto di questo veloce, di questo titolo quinto, che però spostava quindi delle competenze alle regioni. Razionalizzava le competenze di esclusiva competenza delle regioni e di esclusiva competenza dello Stato. Ci sono, se non mi ricordo male, almeno 11 materie che sono state devolute alle regioni, alcune sono molto delicate e hanno creato anche dei problemi proprio di operativi, perché devi stare molto attento quando decidi di gestire l'ambiente, il territorio, l'energia, non puoi segmentarla naturalmente in 20 diverse sottocategorie, ma ci sono dei progetti strategici nazionali e a volte hanno priorità. Alberto, scusa, in questa polemica poi oggi ha parlato anche Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, che ha detto che il Movimento 5 Stelle, nella conclamata incapacità di conquistare democraticamente anche una sola regione, avesse una visione statalista, lo sapevamo bene. Stupisce invece la conversione del Partito Democratico alle logiche centraliste. Il PD continua evidentemente ad avere due facce, statalista quando perde le regioni, federalista quando le governa. Insomma, credo che bisogna uscire dall'idea caricaturale. Questa esperienza di questa pandemia deve anche portarci ad avere una disciplina diversa nell'esaminare le cose, le questioni, nel tentare di dare peso alle parole e soprattutto fuggire dalle rappresentazioni caricaturali facili per i social, facili per creare fazioni, per creare divisioni, per creare tifoserie. Non è un problema di federalismo, di centralismi, non è questo il punto, cioè è un problema di razionalizzazione di risorse, di sia economiche sia di persone che vanno gestite al meglio rispetto a un evento che ha caratteristiche mondiali, diciamo planetarie direi quasi. Quindi è evidente che la dimensione con cui si risponde a un attacco di questo genere non può essere quella micro di un territorio, per quanto efficiente sia. C'è bisogno, come si sta vedendo, anche solo banalmente nelle quantità di denari che devono essere messi in gioco in campo, della risposta il più larga e solidale possibile. Sto parlando della necessità di avere davvero una risposta europea finalmente sulle possibilità di gestire un'inondazione di liquidità per salvare le imprese che adesso hanno il cassa zero e pagano zero. Quindi questo è il grande tema dell'economia in questo momento. Chiaro, grazie Alberto Rioli. Grazie e buon lavoro, voi. Vice direttore del Sole 24 Ore, buon lavoro al giornale. Adesso ci prendiamo, come sempre a questo punto, una piccola pausa di riflessione, di respiro. Se volete 349-238-6666 è il numero per sms WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Chiede questo ascoltatore Andrea: Roberto, è dato sapere che fine faranno tutte queste attrezzature per terapia intensiva e gli ospedali di emergenza una volta che questa tragedia sarà passata? Allora Andrea, intanto teniamoci, ricostruiamole e ampliamo gli spazi, visto che ancora mi sembra che non siamo fuori da questa crisi enorme. Dopodiché, visto che, come dicono gli esperti, purtroppo ci potrebbero essere delle ondate o ci potrebbero essere delle nuove pandemie, forse è meglio che le attrezzature ce le teniamo, gli ospedali, immagino per esempio quello della vecchia Fiera di Milano, che possa rimanere, che possa essere man mano riadattato se le cose migliorano e cambiano. Lo speriamo, intanto pensiamo al presente, almeno per queste cose. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte, allora siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano, come dice Riccardo da Torino. Prima andavo a lavorare, c'eri tu, con la tua voce ci sta fare tanti complimenti, adesso non si può più uscire né per lavoro né per divertimenti, ma tu ci sei sempre con la tua trasmissione, meno male, mi illudo, dice Riccardo, che tutto sia come prima. Cerchiamo di mantenere almeno alcune cose come erano prima, i nostri rapporti, i nostri affetti, anche se magari non li possiamo direttamente incontrare, e anche per esempio i nostri spazi insieme. Se siete dall'altra parte ad ascoltare Effetto Notte, io sono felice naturalmente, perché sono qui per voi, per informarvi ogni sera, per darvi un quadro il più possibile esauriente, completo, chiaro la sera di tutto quello che è successo e che di più importante c'è da sapere, in modo che, dico sempre, un giorno non potrete dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia importante. E per il momento la notizia importante è sempre la stessa, sulla quale ci concentriamo con tutte, diciamo, le sue articolazioni. Ecco, per battere questo virus che sta stravolgendo il mondo intero, si stanno sperimentando, come sapete, varie terapie, la plasmaterapia per esempio, di cui vediamo se riusciamo a parlare questa sera, e alcuni farmaci per esempio antiartrite o contro l'HIV o anche contro la malaria, come la clorochina. Però cos'è che tutto il mondo aspetta di poter brandire come la vera arma per battere questo maledetto coronavirus? È il vaccino. E è stato detto più volte che, bene che vada, ci vuole un bel po' di tempo, dall'anno all'anno e mezzo, se non due anni. Tuttavia il professor Silvio Garattini sembra più ottimista. Allora subito lo coinvolgo e lo saluto, presidente e fondatore, vi ricordo, dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Professor Garattini, bentornato, ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti. Lei ha detto una cosa che così apre un barlume di speranza, cioè ha detto, ho letto in una sua dichiarazione, che potrebbe arrivare persino entro il 2020? Sì, però diciamo bisogna intendere cosa vuol dire avere un vaccino, cioè vuol dire avere l'idea che il vaccino è fattibile. Questa è la notizia che aspettiamo. Poi dopo, evidentemente, che sia fattibile non vuol dire che sarà disponibile il giorno dopo nelle farmacie, ci vorranno naturalmente tutti i tempi necessari, però è importante il momento in cui avremo l'idea che il vaccino c'è, e probabilmente può darsi che ce ne sia anche più di uno contemporaneamente, perché ce ne sono almeno 50 gruppi che stanno lavorando su questo vaccino. Noi però, secondo me, il punto importante è quello che ci dobbiamo preparare a come gestire il vaccino quando sarà disponibile, perché può darsi benissimo che, perché non lo sappiamo, che non ci sia bisogno di questo vaccino, perché se finisce la pandemia e non si ripresenta più, evidentemente non avremmo teoricamente bisogno, però siccome non lo sappiamo, evidentemente se il vaccino c'è è bene vaccinarsi nel caso avvengano altre ondate di questo virus. Bisogna prepararsi, secondo me prepararsi vuol dire prima di tutto non avere una politica puramente nazionale, perché il problema è che dove nasce il virus, dove nasce il vaccino, c'è naturalmente la tendenza a dire prima lo usiamo qui, prima lo usiamo con quelli che ci interessano, poi quindi ci vorrebbe, secondo me, una organizzazione europea, cioè bisognerebbe che a livello europeo tutti i paesi si mettessero d'accordo per come fare rispetto al vaccino, perché ci sono varie modalità con cui si può comperare il vaccino in grandi quantità, e naturalmente se questo serve per 500 milioni i prezzi che si possono ottenere non sono certamente quelli che si ottengono con una popolazione di un solo paese, ma soprattutto bisogna stare attenti al fatto che non ci siano dei monopoli, e quindi bisogna pensare a come si può fare per fare in modo che il vaccino possa essere riprodotto in tanti paesi, in modo che ogni paese possa poi soddisfare alle sue esigenze. Sono problemi molto complicati, però bisogna cominciare a occuparsene. L'idea per cui io ho parlato della possibilità che il vaccino ci possa essere è proprio perché penso che bisogna organizzarci, perché certamente, come dicevo prima, bisogna evitare un monopolio, ci possono essere delle licenze obbligatorie, ci possono essere varie modalità con cui acquisire il vaccino appena è pronto. Noi qui abbiamo in Italia dei centri di eccellenza per il vaccino, quindi possiamo certamente fare del buon lavoro. Tra l'altro, professor Garattini, lei diceva che bisogna stare attenti che nessuno abbia il monopolio. Ricordo che qualche settimana fa il presidente americano Trump pare che avesse cercato di avere l'esclusiva di un possibile vaccino che stanno preparando in Olanda, se non sbaglio. Poi sì, dopo, in Germania. In Germania era quello di Trump, ma è vero che anche in Olanda c'è un centro che sembrerebbe avanzato nella preparazione del vaccino. E ci sono certamente questi tipi di problemi, dobbiamo evitare che ci sia una competizione fra i paesi europei, e invece bisogna organizzarci, anche perché le disponibilità non saranno immediatamente enormi, e quindi bisogna anche pensare a chi debba avere prima il vaccino. Naturalmente devono essere prima di tutto gli operatori sanitari, devono essere quelli che hanno più contatti, devono essere gli anziani che sono più sensibili eventualmente al virus, eccetera eccetera. Cioè c'è tutta una impostazione da stabilire, indipendentemente dal fatto che il vaccino sia disponibile con la fine di quest'anno o che sia un po' più in là, non è quello il punto fondamentale. Il punto fondamentale è che ci dobbiamo organizzare. Professor Garattini, lei che cosa pensa intanto di queste sperimentazioni del farmaco antiartrite, quello contro l'HIV, la clorochina che viene usata per contrastare la malaria? Beh, sono delle sperimentazioni necessarie, perché è inutile continuare ad andare avanti senza sapere che su qualcosa serve o non serve. È solo uno studio clinico controllato, questi studi che sono coordinati dall'AIFA, dalla nostra agenzia per il farmaco, sono solo questi studi che ci potranno dare una risposta definitiva e quindi permetterci di stabilire se continuare a utilizzarli oppure no. Bene, professor Garattini, quindi non ci resta che, intanto, per chi ha la competenza di organizzarsi, come dice lei, di guardare già oltre e di non aspettare l'ultimo momento, sperando appunto che si arrivi nei tempi che lei diceva, magari entro fine anno, per poi capire se, speriamo che se sarebbe veramente un sogno il poter fare a meno anche di questo vaccino, no? Se la pandemia fosse del tutto scomparsa, però da quello che si sente non lo sappiamo, ecco, quindi non sembra che sia tanto possibile al momento, non possiamo fermarci. Grazie mille professor Silvio Garattini, ricordo presidente e fondatore, buonasera, dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Tra pochissimo c'è di nuovo lo spazio per la viabilità, per i pochissimi, le pochissime che sono in giro per motivate questioni. Intanto Aurora chiede: gentilissima Roberta, da giorni mi chiedo per quale motivo, con tanti ospedali dismessi, nuovi, dice tra parentesi, in Lombardia e in Italia, non si siano usati quelli per l'emergenza, perché allestire un ospedale in fiera a Milano non è per fare polemica, che proprio non capisco, potreste spiegarmelo voi. Aurora, non sono così addentro a queste cose, evidentemente si è ritenuto necessario fare in questo modo e non posso sapere tutto negli ambiti più diversi, soprattutto in questo, poi della sanità avranno deciso che era quella la soluzione migliore e forse anche più veloce, insomma, il farlo dal nulla in un grande spazio fatto in 10-12 giorni, ne parlavamo proprio due giorni fa con la giornalista del Sole 24 Ore che è stata sul posto. Bene, ci lasciamo momentaneamente, torno a Ratta con la Folgore. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora con il flusso delle notizie, degli approfondimenti con gli ospiti, qui a Effetto Notte, Roberta Giordano, sempre con voi. Allora, il coronavirus, naturalmente, essendo una pandemia, dilaga in tutto il mondo, pare assente soltanto in Antartide, e a livello mondiale i contagi ormai hanno superato, vedevo poco fa l'agenzia France Press, il milione di contagi in tutto il mondo, almeno quelli ufficiali, e con oltre 47.000 morti al momento. La metà della popolazione mondiale è in isolamento, è veramente una cosa che mai si è verificata nel corso della storia, io penso. E il presidente americano Trump parla di giorni terribili, che saranno orribili, dice, e poi parleremo anche delle stime delle possibili vittime negli Stati Uniti, poi collegandoci con il nostro Riccardo Barlam. Nel frattempo però, parlando di Europa, 500.000 di infettati sono in Europa, quindi la metà del totale nel mondo, e la Spagna purtroppo continua a vivere una situazione estremamente difficile, pesante. Oggi record in un solo giorno 950 vittime, e praticamente è arrivata ai 10.000 morti. E su questo coinvolgo ormai un amico, Jorge Mari Rodriga, editorialista del quotidiano El País. Jorge, bentornato. Bentornato, grazie, Jorge. Buonasera. Quindi i numeri sono sempre spaventosi anche per quanto riguarda la tua Spagna, Jorge. Certo, i numeri: oggi abbiamo superato la quota di 10.000 di morti, più di 100.000 contagiati. E il peggio è che non si vede il finale, perché gli esperti dicono che stiamo cercando ancora il vertice della famosa curva, ma lo certo è che ogni giorno, oggi è il sesto giorno in cui ci sono più di 800 morti. Esperti dicono che forse per il fine settimana il numero sarà minore, ma non si sa. Jorge, tra l'altro una cosa particolare è che la Catalogna, quindi la regione di Barcellona, che sappiamo è da tanto tempo in tensione, in conflitto con il governo centrale della Spagna, perché tanto ha uno suo status autonomo particolare, un suo Parlamento. Sappiamo che c'è stato negli anni passati il referendum, voleva l'indipendenza, è quello che chiede da tanti anni, l'indipendenza dalla Spagna. Ci sono stati poi degli arresti, eccetera. Però adesso la Catalogna torna a chiedere aiuto al governo centrale della Spagna, no? Perché la Catalogna sembra che sia una delle regioni più colpite dal coronavirus. Certamente la Catalogna è con Madrid la regione più colpita della Spagna. Non è che il governo catalano chieda aiuto al governo spagnolo, è che oggi il presidente di Catalogna ha chiesto all'esercito spagnolo di inviare dei medici e delle infermiere a degli ospedali di Barcellona e altre località di Catalogna. L'esercito spagnolo sta già lavorando, sempre stato là, diciamo, non è che in circostanze normali l'esercito non ci sia là, ma sempre con una presenza di basso profilo. Invece adesso stanno aiutando degli ospedali, stanno con questi ospedali militari, ma oggi ufficialmente il governo della Catalogna ha chiesto all'esercito spagnolo di inviare dei medici e delle infermiere. Jorge, e tra l'altro quello che ti volevo chiedere è anche la popolazione, come sta reagendo adesso, da che Sanchez anche, insomma, si è reso conto della situazione, anche lì misure restrittive le rispettano gli spagnoli, tu che cosa cogli, insomma? Sì, devo dire di sì, devo dire che in questo momento già non scherzi pochi, in questo momento tutta la popolazione è consapevole della gravità della situazione, del pericolo che significa uscire per strada. Le sanzioni dei primi giorni della polizia sono in calo, praticamente nessuno sta per strada senza dover andare là. La gente, diciamo, cerca un po', come sicuramente come in Italia, senso dell'umore, pazienza, speranza. Quello che vi auguriamo, questo di poter continuare a avere questo senso di speranza, di unità, di rispetto delle regole, Jorge Maria Rodriguez, e di uscire insieme, anche insieme ai cugini spagnoli e anche a tutto il resto del mondo, da questo incubo. Grazie Jorge Maria Rodriguez e a presto. Grazie a voi. Un abbraccio forte. Grazie. Ciao Jorge. Intanto un ascoltatore, Andrea da Cortina d'Ampezzo, risponde al dubbio di Aurora quando diceva perché non si riprendono ospedali dismessi invece di costruirne nuovi. Dice: spesso le strutture, risponde Andrea, ospedaliere un po' datate, non possono essere utilizzate perché l'impiantistica non è più adeguata alle esigenze. Dice così, almeno ha detto il presidente del Veneto Zaia, così spiegava. Ma adesso siamo con il nostro Riccardo Barlam in collegamento. C'è Riccardo? Non c'è ancora Riccardo? No, invece parliamo, ci scostiamo un attimo dal tema del coronavirus, anche se anche questa notizia bisogna vedere come prenderla, non mi sembra così positiva. Parliamo di clima, perché l'inverno appena trascorso è stato il più caldo di sempre in Europa, con 3,4 gradi in più rispetto alla media del periodo di riferimento, cioè l'ultimo trentennio 1981-2010, un valore ben superiore anche all'anomalia globale di 0,8 gradi. Chi rileva questo? Il Copernicus Climate Change Service, che è un progetto nato su iniziativa dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, e della Commissione Europea. Allora chiediamo chiarimenti, come dobbiamo leggere questa situazione, a Stefano Caserini, che è docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Professor Caserini, bentornato, buonasera. Buonasera. Quindi cosa sono? Notizie negative su altre notizie negative? Ma questa è una notizia che non è nuova, di fatto certo. Sono ormai tanti anni che si stabiliscono dei record di incremento delle temperature e questo è congruente con un trend di lungo periodo che dura ormai da tanto tempo, quindi a differenza di quelle che sono notizie critiche legate al virus, che sono qualcosa che appunto è nato nell'ultimo mese o da 3 mesi, questa storia del riscaldamento globale ha dietro più di un secolo e andrà avanti ancora per molto molto tempo. Che cosa dobbiamo aspettarci da questi cambiamenti? Adesso si stanno studiando anche possibili correlazioni, per esempio, tra il clima e la diffusione di coronavirus, e tra l'inquinamento e la contagiosità del coronavirus. Abbiamo parlato anche di studi così sperimentali che ancora poi devono essere certificati, eccetera, eccetera. E lei che cosa pensa che possa portare, insomma, nell'immediato questo cambiamento? Ma adesso non è chiaro quanto la diffusione del coronavirus dipende dalle temperature, quanto sì. Potrà essere mitigato da un maggiore caldo. Io non sono un virologo, quindi non mi addentro in questo tema. Sicuramente sono due temi diversi. Si può dire che questa riduzione delle emissioni da traffico, in parte anche da attività industriali, porta ad un miglioramento della qualità dell'aria, perché lo smog dipende da quello che si emette nel giorno stesso, magari nel giorno prima, mentre il cambiamento climatico ha una grande inerzia, quindi dipende da quelle che sono state tutte le emissioni anche negli scorsi anni e decenni, perché appunto questo gas, la CO2, che è il principale gas climalterante, sta molto tempo in atmosfera, un quinto dura per migliaia di anni in atmosfera, e quindi noi avremo un riscaldamento che andrà avanti nei prossimi decenni, perché dipende da quello che abbiamo fatto fino ad oggi, e per fermarlo bisogna veramente passare a un cambiamento radicale del nostro sistema energetico, quindi questa riduzione di qualche mese, o vedremo se di un semestre, di qualche magari 10%, non sono qualcosa che incide veramente sul riscaldamento globale, che quindi va avanti con una tendenza che ormai i climatologi hanno definito come molto chiara, così come è molto chiaro che le responsabilità sono delle attività umane. Paradossalmente, proprio essendo molto ferme le attività umane in varie parti del mondo, ma anche per esempio come era successo in Cina, adesso anche in Italia, nella pianura padana, almeno l'inquinamento si è molto ridotto, però appunto non è una questione purtroppo strutturale ma contingente per questa situazione in cui la gran parte, insomma, delle attività è ferma. Grazie intanto professor Stefano Caserini. Prego. Grazie e buona serata. Dicevamo di collegarci con il nostro Riccardo Barlam. Caro Riccardo. Ciao Roberto. Allora, dicevamo, metà della popolazione mondiale in isolamento, il presidente americano Trump ha parlato di giorni che saranno orribili, perché le ultime stime per quanto riguarda gli Stati Uniti dicono che il coronavirus potrebbe provocare fino a 240.000 morti nel paese, Riccardo. Sì, è così. Il picco, secondo le previsioni del modello della Casa Bianca, degli scienziati della Casa Bianca, è di 84.000 morti a fine aprile. Pensate che, intanto la premessa, vi dico che tutti noi che lavoriamo, facciamo questo mestiere ogni giorno a parlare di questi temi, ovviamente non è facile, anche no. Per te, perché stai un'ora tutte le sere a parlare di questo, quindi ve lo dico anche per me. Sembra che ormai esista solo questo, che le nostre vite non possano avere altri orizzonti, sì, proprio, no? A parte lo star chiusi nelle case che già ti leva l'orizzonte. Di non essere pessimisti, ma come dire, è inevitabile farsi prendere, farsi risucchiare da questi numeri che fanno paura. Pensate che i casi di coronavirus negli Stati Uniti ieri hanno superato i 200.000, oggi sono arrivati a 234.000, lo stesso contagi. Le morti erano 4.000 ieri di contagi, le morti oggi sono 5.607 in un giorno, quindi negli Stati Uniti, a New York soprattutto, è scoppiata, sta scoppiando e saranno due settimane, le prossime settimane terribili. Le immagini di oggi degli ospedali a Brooklyn e anche a Queens, i quartieri, diciamo, più poveri sono quelli più colpiti, dove spesso vivono insieme comunità etniche o persone della stessa nazione, e ci sono dei posti a Brooklyn, no, dove da un isolato all'altro ti sembra di stare da Palermo, passi a Pechino e poi dopo 200 metri c'è Calcutta e poi Kingston, e tutto così, e si sta tutti vicini, e quindi alla fine è inevitabile che questo tipo di virus attacchi in un posto del genere. E oggi c'è una notizia positiva, che finalmente la Casa Bianca hanno deciso di mandare 6.000 galloni di prodotti disinfettanti per le mani e le mascherine alla polizia di New York. La cosa incredibile è che la polizia di New York finora non aveva le mascherine, ce ne sono diversi che sono morti e 1.400 sono stati testati positivi, e un 20% dei poliziotti di New York sono per le strade, sono quelli che garantiscono sicurezza, sono senza nessun tipo, sono in malattia e finora sono stati pazzesco, ma sono stati senza nessuna protezione, li ho visti io, è sicuro. E oggi la Casa Bianca finalmente ha detto che in 48 ore manderanno mascherine e queste creme disinfettanti per le mani. Dice Francesco Barbieri: la cosa più terribile è abituarsi alle notizie di morte. Ma tra l'altro, Riccardo, dispiace doverlo ripetere. non ci si abitua. A me non ci si abitua, anche certo. Se siamo, facciamo il nostro lavoro, cerchiamo di farlo in modo onesto, ma siamo umani e fragili anche noi, e spesso anche a me, ma anche a altri colleghi, ci sono momenti di scoramento. Anche lì alla radio ho letto dei colleghi che, insomma, è così, è un periodo un po' complicato, ecco. Diciamo così, Riccardo, tra l'altro, dicevo, spiace ripeterlo, ma Trump veramente fino a pochissimi giorni fa, prima diceva che era un paese che non si poteva chiudere nel modo più assoluto, poi diceva vabbè, ma questo è un complotto nei miei confronti, fino a quando ancora pochi giorni fa diceva ma noi a Pasqua bisogna aprire tutto, le chiese, le feste, le cose eccetera, quindi per forza poi la popolazione, già quando c'è qualcuno che dice state tutti in casa, state tutti attenti, guardate, non abbassate la guardia perché vedete le terapie intensive, i morti eccetera, magari lo stesso c'è qualcuno che va in giro, che trasgredisce le regole da incivile eccetera, figuriamoci quando il capo di uno stato così importante, il più importante del mondo, continua a prenderla sotto gamba fino a quando non vede che le cose veramente, le persone poi cadono come birilli, il sistema sanitario, quello che è. Ricordiamoci che è l'anno delle elezioni e Trump ha fatto sempre alla francese diremmo la grandeur della politica muscolare, dei proclami un po' da vincitore della guerra. Tra l'altro, stato così. Giorni fa aveva anche detto manderemo dei respiratori all'Italia, poi ha detto no, prima vedremo quelli che ci avanzano, insomma, prima copriamo noi gli ospedali, poi vedremo se ce ne avanza. Oggi ha detto non daremo nessun aiuto agli alleati, insomma, man mano, diciamo, no, nei giorni, sui punti di vista sono cambiati. Non sono mai stati così polarizzati come con la presidenza Trump, divisi esattamente in due, però in questo momento anche le persone che votano repubblicano non credono più alla parola di quest'uomo, perché ogni volta che apre bocca parla, diciamo così, e ascoltano i suoi consulenti scientifici, questo dottor Fauci o la dottoressa Bliss, questo dottor Fauci che è un signore di 78 anni. Grande scienziato. Riccardo, ci dobbiamo lasciare, a meno male che c'è almeno Fauci negli Stati Uniti, anche il nostro, grazie Riccardo Barra. C'è una pasticceria italiana che hanno fatto le paste con la sua faccia. Tanto è ammirato e stimato, giustamente. Grazie Riccardo. A voi. Ci sentiamo alle 22.